Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Mebius di un'ora, Simona. Noi siamo quindi prontissimi, anzi più pronti del solito. Da che cosa incominceremo? Parleremo di nuove strategie per spegnere gli incendi. E poi, anticipato da un urlo frenetico, perché solo così si può annunciare il tema zanzare. E poi parleremo di innovatori senza memoria, questo è il tema di un libro che vi presentiamo. Un altro saggio è un manuale per tutti, però, per capire i temi della bioetica. Via. Insomma, un menù ricco. Ricchissimo. Dicevamo, parliamo di incendi questa sera, perché l'estate purtroppo, Federico, è anche tempo di incendi di dimensioni apocalittiche. È stato quello che recentemente ha fatto bruciare il Portogallo, alcune foreste a nord di Lisbona. E allora che cosa fare per prevedere e per gestire meglio gli incendi boschivi? Abbiamo qui con noi Stefano Marsella, direttore dell'Istituto Superiore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera ingegnere. Brevemente dobbiamo dire che c'è un progetto europeo, quindi qualcosa che mette insieme più paesi. Si chiama? AF3. F come Firenze. Dunque, questo è un progetto di ricerca e in questo caso la ricerca è intesa come usi innovativi di soluzioni tecnologiche già esistenti. E quindi nel caso specifico mettere insieme delle tecnologie sviluppate per altre finalità per migliorare la gestione degli incendi boschivi. Ecco, però siccome il progetto appunto mira proprio a rivoluzionare le strategie europee nella gestione degli incendi, ecco come, in che modo? Dobbiamo partire dal presupposto che gli incendi si spengono col personale, a terra, con i mezzi aerei. Però le tecnologie dell'informazione possono aiutare moltissimo perché permettono di allocare le risorse a disposizione nel modo più efficiente. E questo vuol dire mandare gli uomini, gli aerei, dove l'incendio è più grave o dove potrebbe recare più danni. E per fare questo il progetto parte da quella che in inglese viene chiamata situation awareness, cioè la consapevolezza della situazione. In primo luogo bisogna sapere che cosa c'è sul campo, quali sono i rischi, qual è la possibile evoluzione dell'incendio. Quindi il primo punto è la sensoristica, acquisire dati più aggiornati e più precisi possibile. Sensoristica che può dire se c'è un fondo bosco molto secco, per esempio, o dove ci sono più o meno alberi, capire anche in che direzione potrebbe muoversi il fuoco? Assolutamente, bisogna avere la conoscenza di quale sia la massa di materiale che può bruciare, della umidità che diciamo media, della direzione del vento, e questo è uno dei problemi più grandi perché deve essere un dato puntuale, non può essere un dato approssimato. E quindi poi l'orografia, quello lì è un dato che in questo momento è molto più facile disporlo, e mettere insieme tutti questi dati per far girare programmi che simulano in tempo reale l'evoluzione dell'incendio, quindi possono permettere anche al personale sul campo di sapere da che parte ci si può aspettare l'incendio, anche per la sicurezza degli operatori. Ecco, mi sembra che i punti chiave appunto del progetto siano proprio il coordinamento delle forze su scala europea, il fatto di mettere a sistema una serie di tecnologie per poter controllare in tempo reale l'area in cui l'incendio divampa, e poi l'uso di una serie di sensori indossabili, cioè anche per migliorare e monitorare nel tempo l'intervento degli stessi vigili del fuoco, per esempio? Sì, guardi, in realtà quando entriamo in questo campo si tratta di un continuum, perché quando entriamo nel mondo dell'informatica basta che un dato sia inserito in un sistema, poi può essere utilizzato per tanti modi, fino ad arrivare all'allarme alla popolazione. Quindi noi con questo progetto tocchiamo un po' tutti i temi con un focus specifico sull'efficienza dello spegnimento, cioè fare in modo che tutta la filiera che va dal momento in cui viene rilevato l'incendio al momento in cui viene spento venga gestito con il supporto forte delle tecnologie delle informazioni, quindi gli strumenti di simulazione, strumenti che guidano l'intervento aereo, che guidano l'intervento a terra per garantire la sicurezza degli operatori e la tutela delle popolazioni, quindi per mettere un allarme tempestivo, un'indicazione delle vie di fuga più convenienti. Senta, mi pare che forse lì non c'è tanto un aspetto informatico, ma il progetto ci è andato dentro. Ci siano delle novità interessanti per quanto riguarda gli interventi aerei, che sono cruciali e allo stesso tempo non sono facili, sono interventi che hanno una loro quota di rischio, no? In questo progetto il partner israeliano ha proposto una tecnologia che permette di effettuare lo sgancio da una quota più alta, il che vuol dire invece di lanciare l'acqua aprendo dei cassoni che sono sugli aerei, rilanciare dei piccoli sacchetti, una massa di sacchetti di acqua che arrivano a terra senza essersi dispersi in larga parte, come succede adesso, nell'aria, perché c'è un effetto naturale di dispersione. Questo vuol dire che la traiettoria è quella balistica, quindi lo sgancio può essere fatto addirittura guidato dal computer, mentre attualmente è un intervento di una estrema abilità del pilota. Senta, Stefano Marsella, a proposito di rendere più efficiente la gestione di un incendio, mi pare che il progetto preveda anche il coinvolgimento dei cittadini, delle cittadine. In che modo? Può essere utilizzato per l'allarme alla popolazione, che comporta dei problemi tecnologici, ma che sono in via, dal punto di vista tecnico, in via di soluzione. Dovranno essere affrontati probabilmente anche dal punto di vista normativo, cioè fare in modo che tutta la popolazione, indipendentemente dal canale che usa, la televisione, la radio, il cellulare, le reti sociali, internet fisso, possa essere avvertito tempestivamente di quello che sta succedendo nel modo più preciso, perché poi c'è un rapporto diretto tra la qualità dell'informazione e la risposta delle persone. Se l'allarme è preciso, le persone capiscono prima quello che devono fare. Ingegnere, la ringraziamo per questa descrizione e direi, Simone, siamo molto contenti perché effettivamente questa brutta bestia che è l'incendio, così si riesce a comprendere di più e probabilmente otterremo dei risultati notevoli. Insomma, siamo fiduciosi. Ingegner Stefano Marsella, grazie per averci raccontato di questo progetto europeo in cui l'Italia è coinvolta con più partner. Buona serata. Buonasera a voi, grazie. Siamo arrivati al traffico, sentiamo come vanno le cose sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, lo abbiamo annunciato più volte sui nostri social, mi riferisco al fatto che nel corso dell'estate, ancora di più, Federico, vogliamo provare a dare spazio alle vostre curiosità. Alle vostre curiosità scientifiche, mi riferisco a voi che ci state seguendo qui su Radio 24. È molto semplice, voi ci mandate delle domande e noi cercheremo di rispondere con la consulenza dei nostri esperti. Anche quando sono folli come questa qui di cui stai per darci contezza. Sì, perché abbiamo deciso di partire con una domanda curiosa ma perfettamente in linea con la stagione, con l'estate, perché per alcuni l'estate diventa sinonimo: oddio, le zanzare mi tormentano, non mi fanno dormire, addirittura mi svegliano. E allora c'è Alessandro che ci chiede: ma se allevassimo dei pipistrelli, ecco, per qua, avere meno zanzare che ci ronzano intorno? Ci ha incuriosito e noi allora giriamo la domanda a Renato Zamburlini, entomologo dell'Università di Udine. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Allora, può avere senso dormire in stanza in compagnia di un pipistrello per tenere alla larga le zanzare? Ah, tu dici addirittura in stanza. Almeno appena fuori, insomma. Insomma, allevare pipistrelli per non farsi disturbare troppo dalle zanzare, ha senso? Dunque, i pipistrelli innanzitutto non vivono nel chiuso delle stanze, hanno bisogno di spazi aperti dove predano effettivamente gli insetti. E sono animali stupendi che meritano tutta la nostra attenzione e tutta la nostra tutela, però considerarli strumenti di limitazione della presenza di zanzare, soprattutto zanzara tigre, è purtroppo un'illusione. Per un semplice motivo: loro predano la notte, le specie italiane almeno, all'aperto, e la zanzara pigra invece è attiva durante il giorno, la notte sosta all'interno della vegetazione, quindi i due non si incontrano, a meno che non si diano un appuntamento all'alba, forse potrebbe essere una soluzione. Sì, ma poi le zanzare sono miliardi, io non ho idea di quante zanzare si faccia un pipistrello, ma temo che sia un rapporto una mille. Sì, beh, sono state si è provato a svolgere delle ricerche su quale quota della dieta quotidiana dei pipistrelli sia rappresentata dalle zanzare. Si è visto che effettivamente è una quota molto bassa, perché i pipistrelli preferiscono insetti di più grandi dimensioni, naturalmente, che sono più nutrienti. E quindi si è visto che in effetti il contributo che possono dare i pipistrelli è minimo. Alla riduzione delle zanzare è veramente modesto. È vero che loro si stanno sempre più adattando, era l'incubo della notte, ma qui sta diventando anche l'incubo del mezzogiorno. Lei poco fa già lo citava, no? La zanzara tigre c'è permanentemente. Com'è che è avvenuta questa evoluzione? È avvenuta negli anni 90, quando sono arrivate questa specie, è arrivata provenendo dall'America e prima ancora in America, dall'Estremo Oriente. È una specie asiatica che si è rapidamente diffusa, appunto, da prima in America, poi in Europa, attraverso i commerci internazionali di pneumatici e di altre. Eh sì, scendono dagli aerei, no? Per esempio. Sì, scendono dagli aerei, dalle navi. Sono scesi ormai, perché la prima segnalazione in Italia è del 1990, Genova, poi un po' alla volta si è diffusa in tutto il territorio nazionale, fino a quote di almeno, qui in Friuli noi la troviamo fino a circa 800-900 metri di quota, quindi praticamente tutte le aree urbane di pianura, diciamo. Senta, ma anche i cambiamenti climatici in qualche modo favoriscono una maggiore diffusione delle zanzare che oggi troviamo in territori, in aree dove prima invece, che prima non erano abitati dalle zanzare? Ma certamente il riscaldamento globale aiuta alla diffusione delle zanzare più termofile, quelle che amano maggiore temperatura, come ad esempio l'Aedes albopictus, e di altre specie aliene che sono arrivate negli ultimi anni, perché l'albopictus non è l'unica, diciamo, l'unico acquisto degli ultimi anni. Ci sono altre specie, come ad esempio l'Aedes coreicus, la cosiddetta coreana, poi c'è la giapponese, segnalata rispettivamente nel 2011 e nel 2015 anche qui da noi, e quindi c'è in atto uno scambio a livello intercontinentale di animali, di piante, che è ben noto, e che è la globalizzazione, che è l'effetto della globalizzazione, della facilità con cui si spostano merci, uomini, ma anche animali e piante, naturalmente. Senta, però, ha citato diverse specie di zanzare, quindi è il caso di ricordarlo che effettivamente quando parliamo di zanzare parliamo di specie molto diverse tra di loro, e non tutte a quanto pare pungono noi umani, e non tutte soprattutto sono i nostri nemici numero uno, cioè nel senso, le zanzare sono degli insetti così piccolini che al di là del ronzio potrebbero sembrare innocui, in realtà possono causare indirettamente anche tantissime morti, proprio perché sono vettori di virus e in alcuni casi letali per noi umani. Quali sono le zanzare più temibili da questo punto di vista? Beh, dunque, le zanzare hanno tuttora una grandissima importanza sanitaria nel mondo, basti ricordare la trasmissione della malaria di cui che flagella ogni anno vastissime aree del mondo. Il 40% della popolazione mondiale è a rischio di infezione malarica, sono circa 500.000 i morti ogni anno di malaria, e la malaria è la parassitosi più diffusa al mondo assieme alla tubercolosi, quindi un effetto devastante. E la zanzara però che trasmette la malaria appartiene ad una sottofamiglia che si chiama Anopheline, ed è la specie principale è l'Anopheles gambie. E qui da noi la malaria era ampiamente diffusa in Italia, io parlo dal litorale adriatico e alto adriatico, e anche qui da noi rappresentava un problema serio. Qui da noi è scomparsa sostanzialmente, poi le bonifiche fondamentalmente, sì, le bonifiche, poi naturalmente il progresso socio-economico, e da ultimo il colpo finale è arrivato dall'applicazione del DDT, che ha accelerato la scomparsa, l'eradicazione della malaria, anche se probabilmente la causa principale è proprio la eliminazione del vettore. Senta Zamburlini, altra domanda ricorrente sulle zanzare è: ma perché io vengo martoriata dalle zanzare e lui no? Cioè, che cosa fa sì che alcune persone siano più attraenti di altre? Dunque, a medio raggio sicuramente lo stimolo principale è l'emissione di anidride carbonica. Quindi dovremmo rimanere in apnea per non attirarle. Sì. E anche qui ovviamente chi è più grande emette più anidride carbonica, è legato proprio alla massa corporea. Poi nel breve raggio invece le zanzare vengono attratte da un mix di stimoli che sono olfattivi, odori percepiti con le antenne, e stimoli visivi, il movimento, e termici, la temperatura. Più o meno alta, cioè se è alta meglio, se è bassa è meglio, com'è? Ma loro sono programmate per individuare la temperatura standard nostra. Quindi, in una stanza ci sono vari oggetti, ma nessuno è a 36-37 sì, gradi, quindi loro ci prendono subito. Per cercare di capire che cosa ci rende particolarmente attraenti, succulenti per le zanzare, ricordiamo però che sono stati fatti e sono tuttora in corso una serie di studi che vogliono analizzare proprio la genetica dell'attrazione, cioè le basi genetiche che rendono alcune persone più attraenti rispetto ad altre. Potenzialmente potrebbero essere insomma lo step iniziale, potrebbero essere utili per sviluppare, per mettere a punto poi dei repellenti in grado di contenere insomma gli incontri ravvicinati con le zanzare. Ne cito uno che è portato avanti dalla Scuola di Igiene e Malattie Tropicali di Londra, che per capire effettivamente il ruolo della genetica vogliono raccogliere calzini maleodoranti di centinaia di coppie di gemelli identici e non, quindi omozigoti ed eterozigoti, per poi metterli in una galleria del vento piena di zanzare e capire e vedere l'effetto che fa per cercare di capire se emettiamo di fatto alcune sostanze chimiche particolari che ci rendono attraenti o non. Zamburlini, che cosa ci può dire a proposito di queste ricerche per cercare di capire proprio le basi genetiche che rendono alcune persone più attraenti di altre? Dunque, la maggiore attrazione, come dicevo prima, è sicuramente legata alla quantità di anidride carbonica emessa. Per dire, se io sono reduce da una corsa, emetto più anidride carbonica perché sto espirando maggiormente, sicuramente esercito un'attrazione maggiore. Questo è lo stimolo principale. Poi, naturalmente, abbiamo detto che il nostro odore contiene delle sostanze che esercitano un'attrazione. Allora, il nostro sudore contiene circa 350 sostanze diverse. La maggior parte delle quali sono legate all'azione che la microflora batterica esercita, la nostra microflora batterica presente sulla cute, che la microflora utilizza queste sostanze per la propria sopravvivenza, producendo questi odori. Sicuramente ognuno di noi ha una composizione leggermente diversa ed è quello che probabilmente rende ragione della maggiore o minore attrazione nei confronti delle zanzare, perché le zanzare effettivamente preferiscono alcuni odori che sono stati anche abbastanza studiati. Ad esempio, è noto che l'acido lattico sicuramente ha un effetto attrazione, del resto viene utilizzato anche nelle trappole che vengono usate per i campionamenti in campo delle zanzare. Poi ci sono altre sostanze che sono state sicuramente individuate, fra queste c'è il nonanolo, che è un composto aldeidico che è stato riscontrato essere un potente attrattivo nei confronti delle zanzare. Del resto era già noto che studi fatti negli anni 70-80 che c'erano alcuni formaggi che esercitavano un effetto attrattivo nei confronti delle zanzare, in particolare il Limburger, che è un formaggio olandese belga, si era visto evidentemente legato proprio alla presenza di composti prodotti dalle fermentazioni batteriche durante la maturazione, specifici di quel formaggio lì, che esercita un'azione attrattiva. Senta Zamburlini, nel salutarla e nel ringraziarla per esserci insomma stato di aiuto, per averci fatto conoscere un po' meglio il mondo variegato delle zanzare, le dobbiamo fare l'ultima domanda, perché dalla regia ci chiedono che cosa c'è di vero quando sentiamo dire: ah, ti pungono perché hai il sangue buono. Ma quella probabilmente è una semplificazione del fatto che effettivamente ciascuno di noi ha una composizione del sudore leggermente diversa e quindi, come dicevamo prima, esercita una maggiore o minore attrazione nei confronti delle zare. Proprio è un fatto soggettivo la composizione, un po' il nostro odore, e ognuno di noi ha delle leggere differenze che possono essere più o meno diciamo attrattive nei confronti di questi insetti. Ma non è il sangue in totale, evidentemente è qualcosa, qualche componente. No, non è il sangue, è il sudore. Il sudore e l'anidride carbonica, quelli sono i due vettori principali. Chissà, Federico, se chiusi nella stessa stanza tra le zanzare pungerebbero più te o più me. Sono indicazioni queste che stiamo dando utili, perché anche, come dire, nella formazione di una coppia si potrebbe decidere che uno si becca tutte le zanzare e l'altro è più tranquillo o tranquilla. Buona estate a lei, Renato Zamburlini. Grazie, altrettanto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dopo le zanzare, che sono un flagello, invece parliamo di cose che possono essere estremamente adatte e divertenti, entusiasmanti d'estate, che sono le letture. Sì, il libro che voglio consigliarvi questa settimana si intitola La sindrome di Eustachio, pubblicato da Bompiani e scritto da Massimo Sideri. Un libro in cui l'autore, che è un collega del Corriere della Sera ed è qui con noi in studio, benvenuto. Grazie dell'invito. Innanzitutto, Massimo Sideri, perché questo libro? Allora, il libro nasce fondamentalmente, lo posso confessare tranquillamente, dalla mia ignoranza. Io stesso non conoscevo molte di queste storie, ho iniziato per curiosità e anche per interessi legati al mio lavoro a incontrarle, a incrociarle, a raccogliere. A un certo punto mi sono reso conto che in realtà questa scarsa conoscenza individuale era una scarsa conoscenza nazionale, quindi ho iniziato a pensare a un libro che potesse in qualche maniera raccogliere questa che ho denominato sindrome di Eustachio, perché è una sorta di sordità culturale che noi italiani abbiamo nei confronti dei nostri innovatori, e ho visto che fondamentalmente c'è un percorso narrativo che quasi ci ricollega al 1200 ad oggi e che si ripete sempre uguale, sempre con questa scarsa capacità di riconoscere i nostri meriti, le nostre qualità, i nostri grandissimi innovatori, non solo nel passato come spesso sentiamo dire, ma anche attualmente. Quindi era anche un modo non solo per risvegliare l'orgoglio, ma anche per tentare di analizzare l'Italia di oggi. Ce ne sono tante di storie che racconti, non le sveliamo perché insomma il libro va letto, però anticipo soltanto che nel libro si parla del pianoforte, del libro tascabile, degli occhiali, dei brevetti. Ecco, torniamo al titolo. Il riferimento è a Bartolomeo Eustachi. Nel raccontare la sua storia, cogli l'occasione per sottolineare e ricordare il ruolo importante dell'Università di Padova all'epoca, siamo nel 1500, e anche nel ricordare il ruolo che aveva Venezia, che era una sorta di Silicon Valley, una patria dell'innovazione ante litteram. Perché? All'epoca era molto interessante Venezia perché era un porto di mare internazionale dove arrivavano persone da tutto il mondo, e queste persone portavano delle tecnologie. Proprio per questo l'ho definita appunto una sorta di Silicon Valley ante litteram, perché in qualche maniera funzionava, mutatis mutandis, come può funzionare oggi la Silicon Valley, che attiva questi cervelli da tutto il mondo che portano innovazioni, portano conoscenza. Proprio perché appunto, come dicevi, Venezia attirava persone ingegnose da tutto il mondo, ad un certo punto si è interrogata e si è resa conto dell'importanza di tutelare le invenzioni di tutte le persone che gravitavano a Venezia. Padova, l'Università di Padova invece la definisci come ambita, come lo è oggi quella di Harvard. Era così, Padova era uno dei centri sicuramente medici più importanti nel mondo, tant'è che venivano a studiare a Padova da tutto il mondo. Ricordo soltanto uno, Harvey, studiò all'Università di Padova, poi tornò in quella che era la Gran Bretagna dell'epoca per diventare famoso come il padre della circolazione sanguigna. Quindi era un posto molto importante dove si potevano sperimentare delle cose che in altri posti non era permesso sperimentare. La cosa interessante è anche che Padova e Venezia erano abbastanza distanti da Roma e dal Vaticano, e quindi in qualche maniera anche nell'anatomia si poteva usare di più rispetto a ciò che poteva essere usato in un cerchio concentrico più vicino a Roma. Non è un caso che all'Università di Padova andò proprio Galileo Galilei, e proprio a Padova fece le famose osservazioni per cui poi dovette fare la biura. E infatti racconti alcuni dettagli dei laboratori di anatomia dell'Università di Padova, leggete il libro perché sono davvero curiosi e interessanti. A proposito di invenzioni, citi l'invenzione della stampa e ci riveli che prima di Gutenberg è stato un italiano a inventare la stampa a caratteri mobili, in quel caso in vetro. Al di là della storia del protagonista, poi insomma ci direi chi è, mi ha incuriosito il fatto che parlando di Gutenberg però l'hai definito uno start-upper. Perché? Allora, il padre della stampa in parallelo, possiamo dire, della stampa a caratteri mobili in parallelo a Gutenberg fu Panfilo Castaldi, è stato un oggetto di un dibattito internazionale già nel 700 e nell'800, poi si è perso e abbiamo dimenticato questa paternità. Gutenberg lo definiscono start-up perché in qualche maniera si comportava esattamente come si possono comportare gli start-up oggi. Innanzitutto dobbiamo ricordare che al tempo le persone facevano tantissime cose, lo stesso Gutenberg era un orafo in realtà e poi nel tempo libero fondamentalmente tentò di inventare la macchina a caratteri mobili per la stampa. In realtà poi morì anche povero perché perdette, esattamente come uno startup che va verso il fallimento, perdette un po' la paternità di questa macchina e in realtà non divenne mai ricco. Per questo ho pensato a questa immagine dello startup che in qualche maniera ci riporta anche ai giorni di oggi. Io ho ancora tante curiosità, vediamo se c'è tempo almeno per qualcuna. Allora, oggi collochiamo la patria di queste invenzioni in Germania, ma in realtà in Italia sono nati sia il pianoforte sia la matita. Sia la matita sia il pianoforte, incredibile, anche questo è assolutamente documentato, quindi non ci sono dubbi. Il pianoforte in particolare è nato in Italia, abbiamo addirittura il primo prototipo di pianoforte che si trova al Museo degli Strumenti Musicali di Roma. Per le matite è la stessa cosa, le matite furono inventate da questi mitologici coniugi Bernaccotti. La storia ci riporta che furono i due coniugi a pensare alla matita moderna, quindi non all'apis che già esisteva in passato, ma alla matita moderna fatta con un'anima di grafite e un corpo in legno. Quindi un contenitore di legno. Un contenitore con il di legno cuore per la grafite, esattamente quella che oggi chiamiamo matite. Nacque dai coniugi Bernaccotti, anche se poi anche qui c'è un legame con la situazione attuale, grandissimi inventori, grandissimi innovatori non sono stati capaci di industrializzarla. E c'è lo zampino italiano anche nello sviluppo dei primi personal computer? Questo assolutamente sì, in molte parti del computer in realtà c'è lo zampino italiano. Il microprocessore è stato sviluppato da un team guidato da Federico Fagin, che è un ingegnere vicentino, oggi vive in Silicon Valley in California, quindi è un cervello in fuga, e lui ha guidato il primo grande progetto Intel per studiare il microprocessore e riuscendo a portare a termine questa invenzione. Massimo Sidera, ad un certo punto, tra le tante innovazioni tecnologiche che citi e di cui ci racconti la nascita e la paternità nel libro La sindrome di Ostacchia, ad un certo punto fai il nome di Fernando Di Leo, che è un regista particolarmente amato da Quentin Tarantino, ma perché lo citi? Lo cito perché la storia è aneddotica e anche simbolica molto, perché Fernando Di Leo era un regista pugliese scomparso da qualche anno, e fondamentalmente noi lo consideravamo un regista di serie B sino a quando appunto Quentin Tarantino al Festival di Venezia, alla domanda ma qual è il tuo regista preferito, qual è il regista che ti ha anche ispirato Pulp Fiction, lui disse Fernando Di Leo. Peccato che in Italia nessuno fondamentalmente lo conoscesse, quindi come spesso capita siamo dovuti passare da un grande interprete straniero per scoprire ciò che avevamo in patria. Senti, lo dicevo in apertura, nel libro non racconti soltanto storie del passato, perché in un certo qual modo guardi anche al futuro, ci porti a guardare al futuro partendo da alcuni dati del presente. Per esempio, ci ricordi quanto poco si investa oggi in Italia in ricerca e in sviluppo, in startup, eppure sottolinei che il tasso di crescita del PIL va a braccetto con la spesa in ricerca e in sviluppo. Questo è uno dei dilemmi attuali dell'Italia, noi investiamo all'incirca l'1,3% del PIL, ci serve il fatto che siamo ancora un grande paese con un grande prodotto interno lordo e quindi quell'1,3% è comunque una cifra importante, ma sappiamo che in proporzione comunque molto meno di quanto investono gli altri paesi, e questo ci porta comunque a perdere talvolta delle battaglie che potremmo vincere, perché come dicevamo a livello scientifico e tecnologico riusciamo ad avere dei grandissimi risultati, poi senza investimenti non riusciamo a creare quella che è l'industria in qualche maniera. Faccio solo un esempio: il biotech nasce da un esperimento di un grandissimo genetista italiano, Claudio Bordignon, che per la prima volta utilizzò le cellule staminali su una persona 25 anni fa. Il biotech oggi è un'industria miliardaria degli Stati Uniti e noi stessi non sappiamo che in realtà è nata qui. E infatti dici che la nostra ricerca è povera ma bella, ci sono tutti i segnali per individuare nuovi Meucci, sperando appunto però che a loro non spetti la stessa sorte che è toccata a Meucci. E poi fai una considerazione con cui io ti invito insomma a salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici: pensare di poter essere competitivi senza investire è una favola tutta italiana. È una favola italiana che sentiamo spesso, che non sono importanti i soldi, non sono importanti gli investimenti. In realtà sotto i nostri occhi c'è esattamente la riprova del contrario. Noi siamo grandissimi scopritori, abbiamo un livello scientifico molto alto, purtroppo senza investimenti non si creano le industrie, sono le industrie che creano occupazione e ricchezza. E allora Massimo Sideri, la sindrome di Eustachio Bompiani, grazie per essere stato con noi, buonasera. Grazie a tutti voi, buonasera. E a tutti e a tutte voi, buona lettura. Un grande ritorno adesso, le notizie dal traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso ancora un altro libro per le vostre letture estive. Bioetica per perplessi è il titolo di questo libro edito da Mondadori Università. È sottotitolo Una guida ragionata, l'hanno scritto Gilberto Corbellini e Chiara Lalli. Gilberto Corbellini, che si insegna storia della medicina e però anche bioetica alla Sapienza di Roma, e anche Chiara Lalli insegna bioetica all'Università di Teramo, e qui abbiamo Gilberto Corbellini. Ciao Gilberto. Ciao Federico, buonasera. Dunque, una prima domanda sul titolo. Bioetica per perplessi è una mission, cioè scrivere un libro che è sostanzialmente un po' un manuale, non per addetti ai lavori, però ha quella struttura. Cerco di descriverti un po' come stanno le cose in generale, per perplessi, cioè persone che non siano già schierate su tutti questi problemi bioetici. Sì. È questo l'obiettivo? Sì, l'obiettivo è fondamentalmente questo. Insomma, noi stiamo parlando di... Allora, il titolo intanto, se vogliamo, riprende il titolo di un'opera filosofica molto importante, molto influente, che era Guida per perplessi, il filosofo e rabbino Maimonide, che aveva lo scopo fondamentalmente di cercare di mettere d'accordo quelle che erano alcune credenze teologiche nell'ambito del pensiero ebraico con l'emergere di alcune idee nuove della filosofia alle quali lui guardava con estremo interesse. Quindi in questo caso è un po', diciamo, il tentativo di mettere d'accordo alcune nostre intuizioni e i nostri modi di vedere le scelte che si possono fare in contesti medici o legati alla ricerca biomedica con le opportunità che questa ricerca offre, e che però per molte persone possono essere viste anche come delle minacce, e poi ci sono coloro i quali ovviamente non riescono a orientarsi rispetto a contrapposizioni che spesso sono di carattere più ideologico che fondate su fatti pratici. Per dire come funziona il manuale, io prenderei un tema che non è di quelli soliti sui quali si discute moltissimo, come eutanasia, fine vita, ecco. Prenderei invece questo tema che voi trattate a pagina, intorno alle pagine 100, che è il consenso informato, ovvero il fatto che per terapie, per interventi chirurgici, ma anche per consenso a certe sperimentazioni mediche, bisogna che il paziente, il soggetto, firmi un documento, sia informato, sia conscio di quello che sta per fare. Qui sembrerebbe in modo molto superficiale che in fondo ti dico come stanno le cose, tu firma, e invece qui lo spiegate bene, i problemi non sono così semplici. No, allora i problemi non sono semplici, perché se il consenso deve essere dato sulla base di una comprensione dell'informazione, come è previsto, perché noi siamo passati da un'idea di consenso, cioè da un momento in cui il consenso non c'era e risaliamo, diciamo, a molto indietro nella storia della medicina, un momento in cui i medici capiscono che il loro lavoro viene meglio se coinvolgono il paziente, quindi gli chiedono il consenso, a un momento in cui soprattutto nella giurisprudenza americana si cominciano a fare, a condannare dei medici e dei chirurghi che fanno interventi senza chiedere il consenso al paziente, al momento in cui nel codice di Norimberga si introduce il concetto di consenso volontario con riferimento al fatto che nei campi di concentramento i medici nazisti avevano, diciamo, sottoposto torture e sperimentazioni mortali i prigionieri, al momento in cui questo consenso diventa, tra virgolette, informato. Cioè, quindi informato vuol dire che il medico ha il dovere di fare in modo che l'informazione, cioè i dati, diciamo, i rischi o comunque le informazioni legate alle conseguenze possibili del trattamento o del non trattamento siano comprese dal paziente. Questo, quindi, è il punto sottile, no? È tutt'altro che quello che in genere si fa in Italia. Cioè, ora parliamoci chiaro, se tu vai a sottoporti a un trattamento medico negli Stati Uniti, e soprattutto se poi questo trattamento medico magari è un trattamento sperimentale in campo oncologico, il tuo consenso informato può essere fatto di 100 pagine. Cioè, quelli ti dicono tutto. Quello è un manuale da studiare. Esatto, è un manuale da studiare. In Italia si è passati da una fase in cui il consenso era un po' una liberatoria, il medico faceva firmare al paziente, in cui c'era scritto, grosso modo, non in questi termini, c'era scritto: io paziente ti autorizzo a fare questo intervento e mi impegno a non denunciarti se le cose vanno male. Perché poi c'è questo problema, è ovvio, esatto, anche comprensibile. Esatto, e c'era questo. Adesso le cose dipende da diverse zone d'Italia, però le cose sono un po' migliori. Per esempio, i consensi prevalentemente li raccolgono gli anestesisti in diverse diciamo, ospedali, in diverse strutture, e quindi i dati sono presentati in modo abbastanza chiaro, eccetera. Quello che in genere non si fa in Italia, mentre invece è qualcosa a cui sono molto attenti nel mondo anglosassone, è che il consenso non sia influenzato da terzi. Quindi tu medico puoi anche provare a far pressione se tu vedi che questo paziente prende le decisioni che non vanno bene migliori, secondo te. Sì, per lui non è. Dopodiché, però, se lui vuole che sia così, è così, punto e basta. Mentre, diciamo, bisognerebbe garantirsi anche che i parenti non influenzino troppo queste decisioni. Che so, nelle zone del sud degli Stati Uniti, dove molti pazienti sono messicani, insomma, vengono, diciamo, da ambienti culturali sudamericani, dove il concetto di autonomia decisionale è molto scarso e dove le decisioni le prende la famiglia, adesso i medici trovano una situazione o anche con i cinesi, molte popolazioni asiatiche, il medico, diciamo, protestante, liberal americano, che dice: ok, adesso tu eserciti la tua autonomia, dai il consenso indipendente, senza che nessuno ti influenzi, e quello gli risponde: no, aspetta un attimo, perché io parlo con mio padre, mia madre, mia nella moglie. Mia tradizione si fa così. Esatto, o decidono loro. E quindi, insomma, la cosa è molto, molto aperta. Esatto. C'è un punto particolare che voi trattate che non è facile da risolvere, cioè quell'informato è, insomma, bene o male, è strettamente connesso alle conoscenze, alla culturali, alla capacità di comprensione, che non è uguale in tutte le persone. Allora, a un certo punto, se il medico si trova di fronte a una persona che ha delle difficoltà, dovrebbe veramente dedicargli giorni per arrivare, no? Dovrebbe informarlo su tutta una serie di cose di base e poi chiedergli cosa ne pensa. Non è banale questo. Il medico deve dedicargli tempo, ma comunque diciamo, quello che si richiede è che la comprensione dell'informazione sia la comprensione di una persona ragionevole sostanzialmente, sì. E questo, diciamo, è il tipo di situazione nella quale il medico dovrebbe mettersi con il paziente e quindi essere in grado, anche per questo, insomma, ci sono medici e figure, insomma, che sono più brave, esatto, a cogliere il consenso rispetto, esatto, ad altri, certo. Lì si tratta di dare informazioni, ma non sulla base di quello che tu medico ritieni che sia informazione, ma sulla base di quello che l'informazione è per il paziente, e quindi, certo, tu devi scendere a livello del paziente, se così vogliamo dire, insomma, sì, comunque, sì, per essere, insomma, diretti, presentarli diciamo il dato in modo, che ne so, non statistico, insomma, la probabilità, per esempio, che tu abbia un effetto collaterale da questa terapia è del 35%, però in alcune situazioni è del 10%, perché su queste cose qua il paziente spesso si può perdere, mentre invece il medico deve riuscire a presentargli le cose in modo che lui le capisca. Bioetica per perplessi, scritto da Gilberto Corbellini, Chiara Lalli, una guida ragionata, edito da Mondadori Università. Beh, insomma, di questi tempi diventa un libro che sarebbe meglio leggere bene, anche studiarlo un po', perché la materia è veramente suggestiva, importante e cruciale, ma qui ci sono tante cose da capire. Grazie Corbellini, buon lavoro. Grazie Federico, buonasera. Sempre con un'ora di trasmissione, ci sentiamo la prossima settimana. Vi aspettiamo quindi su Radio 24, ma nel frattempo seguiteci anche su Facebook, Twitter e sul nostro blog sul sito di Radio 24. Come sempre, buona settimana a tutti e a tutte.